noi abbiamo due tori scatenati che scalpitano per entrare in campo. Voi avete chiesto di loro e ora li avrete. Eccoli là! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Per noi domani è un buon test, soprattutto anche in vista dell'Olympiacos, che è la prima partita decisiva della stagione, perché da lì possiamo scappare. Da lì abbiamo l'obbligo di andare avanti agli ottavi di finale Champions. La squadra al momento ha fatto quello che doveva fare, abbiamo credo un punto più dell'anno scorso, se non sbaglio. È il Napoli che sta facendo questa straordinaria, una squadra che fa 12 vittorie e 2 pareggi, credo che sia successo poche volte nel campionato italiano. E quindi noi domani affrontiamo una squadra che in questo momento sta viaggiando molto più di noi e merita assolutamente la posizione in classifica che ha e merita assolutamente i favori del campionato. Al momento parliamo di convocazione, vediamo come sta. Vediamo come sta la mano, che quanto dolore ha, perché è inutile rischiare un giocatore per una partita, poi ne abbiamo altre 30 da qui alla fine della stagione. E quindi devo fare bene delle valutazioni insieme a lui. Così Allegri questa mattina in conferenza stampa, Giorgio De Luca, nostro autore, oggi Paolo Corleoni in regia. Vi devo confessare una cosa, io con avanzare dell'età, confesso i miei malanni, divento sempre più meteopatico, e quindi noi anziani parliamo del tempo, cielo di Lombardia come diceva il poeta, così bello quando è bello, e oggi su Milano è bellissimo, e divento sempre più allergico alle vigilie, compresa quella di Natale, figuratevi quella di Napoli-Juventus. Vorrei condividere questa vetero riflessione con Pierluigi Pardo e Maurizio Crosetti. Ciao ragazzi. Ciao Pierino. Come va? Parliamo del tempo. Ma guarda, io sto cercando di far entrare delle bottiglie di prosecco dentro un bagaglio che da bagaglio a mano diventa un bagaglio. Sono bei problemi della vita, però è una scena un po' surreale, capito? Quando metti le bottiglie in mezzo ai grattini. Quelle sì. che crescono puoi berle, Pierluigi. Eccolo là! Ciao Crosetti, buongiorno! No, l'alternativa era berti 4 bottiglie di vino. Oppure puoi mandarle a noi, cioè no, ti do l'indirizzo, certo, siamo una coppia di fatti io e Crosetti, no, questo lo so già da tempo. Sì, è che non so proprio dove, vabbè, comunque tutto a posto. C'è un bagaglio che pesa 48 kg adesso, spero che... Come va ragazzi? Bene? Molto bene! Divento allergico alle vigilie, perché a me, francamente, che ci sia Napoli-Juventus domani sera, oggi è giovedì pomeriggio, domani sera porta in questo momento abbastanza una seg, come diceva il poeta. Ma domani sera, cioè stiamo... Come fosse sabato. Sì, va bene, ok, divento allergico alle vigilie, sono malanni relativi all'età, cross... supportarmi almeno. Io penso invece che l'attesa di Juve di Napoli Juve sia essa stessa mi piacciono le vigilie, poi con tutti questi giochi di parole che mi suggerisci Higuain, no, alla Juve serve un colpo di mano, non sarà una squadra di seconda mano, cioè forse non c'è Higuain, mano non è un problema. Basta. ma per noi è fondamentale, per noi facciamo questo mestiere, di che cosa viviamo se non di eventi e vigilie. Io preferisco il rapporto consumato rispetto all'attesa, poi non so, il resto dipende dai gusti. Come la vediamo? Come stai con le bottiglie di prosecco, Pierluigi? Ce la fai? Ti fanno passare? Non lo so. Sto cercando di imbarcare. Com'è la situazione? Mi chiedono alla radio. Com'è la situazione? Imbarchiamo? Imbarchiamo, sì. Ce la possiamo fare. Tranquillo. Ci faccio mettere una buona parola da Maurizio. Mi chiede se è successo qualcosa che lei non sa. No, è semplicemente che ho infilato 4 bottiglie di prosecco dentro questa... Non dovevo dirlo. Quanti ricordi però? Si parla di Napoli-Juve e di imbarchi e di aeroporti. No, ho detto che oggi il clima è un po' secco. No, ma non è prosecco, comunque è vino fermo, che non... Tutto questo è abbastanza surreale, ragazzi, però questa è la meraviglia. Questa è la meraviglia della radio, è inutile. Sì. Poi io sarò anche così, avrò anche le mie fisse appunto dovute all'età, ma la meraviglia della radio è questa, il jazz, lo swing. Dicevi, Maurizio, vigilia di Juve-Napoli. Dicevo che pensando al prosecco di Pierluigi e a Napoli-Juve imminente, mi ricordo quando si arrivava a Napoli con l'aereo della Juventus e quando si era anche in partenza, magari ne mancava ancora qualcuno, si era un po' in ritardo, e allora immancabilmente l'amico Lucianone chiamava il caposcalo, che era a disposizione totale dell'amico Lucianone, ma era meraviglioso. E poi arrivava Armandino sotto bordo col suo taxi. E a lei, che c'è? Che succede? Niente, momento selfie, quindi però. No, no, c'era Maurizio che mi stava raccontando di. No, ma sentito, io sento faccio il selfie col telefono. Di Armandino. No, cosa vogliamo dire, Maurizio? Bei tempi quelli là? No, vogliamo dire, no, non è, beh, oddio, anche dai, insomma, non demonizziamo tutto, erano anche bei tempi, e sporcati da altre cose che purtroppo, vabbè, insomma, ne abbiamo parlato tante volte, si sono confuse quelle brutte cose a una squadra che era quasi sempre la più forte e che non aveva bisogno di quelle cose lì, però lasciamo perdere. E questa? Se non si torna indietro. E questa? Questa è, io non ho ancora capito se sia più forte o più debole dell'anno scorso, è certamente forte quanto l'anno scorso come punti, anzi ha un punto in più, ha ragione Allegri, certo che se poi il Napoli ne vince 12 e ne pareggia 2 c'è poco da fare, anche se poi le statistiche sono quella cosa che quando si avvicinano al loro contrario fanno paura, e penso a Gattuso che va a Benevento contro una squadra che non ha preso nemmeno un punto e tocca a lui affrontare. Penso anche al Napoli che le ha vinte tutte, però intanto adesso arriva la Juve, insomma, ecco. Sì, e a proposito di Gattuso, en passant, come vedi questa storia? Tra l'altro va a Benevento sul campo di De Zerbi, con cui ha avuto qualche screzio. Un crocio. Momento di simpatia, sì, fu quello tra De Zerbi e Gattuso. Come lo vedi, Cross? Ma io Rino lo vedo bene a prescindere, perché gli abbiamo voluto molto bene, e questo non deve naturalmente condizionare il giudizio sull'allenatore. Per adesso c'è un giudizio, come dire, empatico di molti di noi, dice a buona stampa. Sì, a buona stampa, perché è Gattuso, cioè non è che gliel'abbiamo regalata, la sua buona stampa se l'è conquistata col suo essere personaggio davvero speciale, su questo non c'è dubbio. Dopodiché il rischio di bruciarsi c'è, e lui mi sembra uno che non ha paura di scottarsi. È una scelta molto coraggiosa, non c'erano grandi alternative, io per affetto gli auguro tutto il bene possibile, dopodiché so che c'è una buona parte anche di cavoli suoi, ma lo sa anche lui, nell'emergenza è sempre difficile nuotare, però io gli auguro di fare bene. Sì, Pierluigi. Però è la prima volta che ha una panchina e un contesto e un'organizzazione all'altezza della sua storia, come diciamo ieri anche con Andrea D'Amico, quindi tutti gli incidenti di percorso che ci sono stati, perché insomma sarebbe ipocrita non riconoscerlo nella sua giovane carriera di allenatore, contano zero, perché indubbiamente lui ha allenato in dei posti che probabilmente non era abituato a conoscere, con tutto il rispetto nella sua carriera di giocatore, che invece è stata sempre una carriera top. No, ma comunque rimane quello che ci siamo detti ieri, io ne resto profondamente convinto e mi pare tu fossi d'accordo, cioè per Gattuso è paradossalmente più semplice allenare in questa situazione, in questo contesto, in questo ambiente, in quel marasma, in quel casino, ma che conosce molto bene, con il suo carisma, piuttosto che l'Ofi Creta o il Sion, con tutto rispetto ovviamente per l'Ofi Creta, il Sion e tutte quelle realtà che ha attraversato. Paradossalmente può essere più semplice, poi Gattuso è anche uno che insomma può far pesare la sua buona stampa, la sua buona opinione pubblica, il suo ascendente, il suo carisma e anche il suo saper prendere qualcuno a sberle se deve prenderlo, sportivamente parlando. Questo è quello che fino a un certo punto, poi buona stampa, nel senso che poi alla fine, voglio dire, è chiaro che l'elemento della simpatia è indiscutibile, no? Però non basta la simpatia o l'essere un personaggio straordinario, senza alcun dubbio, per essere poi protetto da chissà quale immunità. Io penso che invece su Gattuso ci siano le grandi aspettative che si hanno sui grandi uomini di calcio, che da un lato certamente hanno probabilmente qualche scorciatoia in più. Ricordi la famosa discussione sul caso Mancini, quando Mancini cominciò la sua carriera, no? È ovvio che i personaggi di grande carisma che hanno vinto da calciatori hanno qualche tu in mano in più, però è anche vero che hanno poi molto da dimostrare, perché se la carriera da allenatore non è all'altezza di quella da calciatore, allora si cambia subito idea. Insomma, il calcio, come ben sai, è liquido. Va bene, ragazzi, un attimo di pazienza al traffico, torniamo subito. Maurizio, sta lì ancora un attimo. Subito dopo l'intervallo, la lotta continua. Tutti convocati. convocati. Riferite a quella di ieri che è venuta fuori, che mi hanno detto. Ah, io speravo che fossero picchiati, perché ogni tanto dentro lo spogliatoio un po' di casino serve per alzare un po' la tensione. Invece purtroppo non è successo nulla. Speriamo tra un po'. E così Allegri in vernacolo toscano, a proposito della notizia uscita dalle sacre mura dello spogliatoio juventino di un diverbio, di un bisticcio tra senatori e strangers della Juventus. Notizia prontamente smentita. Lei dice: ma speriamo che si scazzino, magari si svegliano. Però io resto della mia idea. Questo gruppo storico che è all'ultima danza, last dance, come diceva Phil Jackson, sia qualcosa di cui tenere conto, un fattore di cui tenere conto in una stagione juventina. Prova a non essere malizioso fino in fondo, ma voglio sentire Crosetti. Beh, questa è gente che sa di avere l'ultima occasione, alcuni di loro la vorranno a tutti i costi, in tutti i modi. Io sono d'accordo con Allegri, perché so quanto anche le squadre che non si amano troppo tengano grandi risultati. Me lo diceva sempre un personaggio della Juve di Trapattoni, quella di Platini, quella Juve lì, non andavano quasi mai a mangiare fuori insieme. Alcuni non si prendevano proprio in quella squadra, proprio in campo non si notava per niente, e qualche volta volavano anche gli stracci, sempre però nel perimetro dello spogliatoio. Io sono per gli stracci che volano ma non escono dalla finestra e dalla porta, in tutti esatto. I posti, anche sul lavoro. Gli stracci devono volare. La differenza è che se poi si vede che volano, sei debole. Se volano e basta, va benissimo. Certo, perfettamente d'accordo. La Lazio del 74 è un esempio molto letterario di inimicizia di due spogliatoi diversi in allenamento, anche la stessa Inter del triplete, insomma qualcuno dice che poi non è che proprio si amassero molto, cioè c'erano dei clan all'interno di quella squadra. In generale io credo che l'adrenalina e un certo tipo di aggressività entro certi limiti faccia bene, quindi il ragionamento di Allegri lo capisco benissimo, poi è ovvio che se c'è qualcosa di più profondo allora diventa problematica, però in caso contrario secondo me entro certi limiti è una componente di aggressività che può addirittura aiutare in certi momenti. Sì, d'accordissimo. Un'ultima cosa, Maurizio, la storia di Higuain, come la leggi, sempre usando la cabala? Cioè questo operato alla mano no, non c'è di sicuro, e poi sì, forse c'è, forse va in panchina e magari lo vediamo pure in campo. Tutte le trame che riguardano questo personaggio e quella storia lì, cioè lui che si incrocia col Napoli, hanno avuto dei colpi di scena o dei colpi di genio, perché non c'è stato niente di banale, soprattutto in campo, nelle prestazioni precedenti di Higuain contro il Napoli. È chiaro che con una mano conciata in quel modo, se tu la fasci troppo non puoi andare in campo, perché è un oggetto contundente. Se la fasci poco non puoi andare in campo perché ti puoi far male. Io credo che lui vorrebbe esserci a tutti i costi, dopodiché non credo che la Juve, con o senza il suo Muzio Scevola, possa avere una grande differenza di atteggiamento. È chiaro che la Juve è la squadra che segna di più, Higuain nel suo centravanti, non e averlo cambia vedi, no, vedi cambia. Tu. Senti, mi fa, un quindi, quindi... mi fa un piacere prima di salutarti, potresti per favore spiegare al professor Maurizio De Giovanni che domani sera c'è una partita, perché lui è negazionista da questo punto, domani sera c'è una partita, domani sera non c'è nessuna partita, puoi spiegargli Maurizio De Giovanni, posso spiegargli soltanto quanto è bello leggere i suoi libri, e può sembrare piaggeria, ma è così, Maurizio lo sa quanto io sia un suo lettore, un suo ultra, quindi io sono un ultra di Maurizio De Giovanni, che gli posso dire? Niente. Grazie infinite. No, spiegagli grazie che c'è una partita, perché se usted lo nega. Io veramente pensavo al teatro, devo dire. Penso che qualche bella pièce teatrale. Io mi cogliete impreparato, non sapevo ci fosse una partita domani. Domani venerdì cena fuori, no? Pizza alla grande. Invito tutti con me a mangiare la pizza. Ti consiglio Zona Fuorigrotta, c'è poco traffico domani sera. Quindi io peraltro devo attrezzarmi per un posto che abbia una reperibilità del 118 sufficientemente vicina. Quindi ma perché, scusa, per la pista teatrale, professore, c'è bisogno... È a una certa età, quindi un defibrillatore, è sempre meglio attrezzarsi in questi tempi, per la verità. Meglio prevenire, sì, poi il ristorante, insomma, di solito si mangia bene, però non sai mai, no? Quindi è una forma di precauzione. Non sai mai che ti danno. Ecco, è una forma di precauzione questa condivisibile. Cross, cosa ne, prima di salutarti, poi ti lascio davvero, che cosa ne pensi di questo siparietto? Penso meraviglia. Una cosa è anche che la radio è irraggiungibile, possiamo raccontarla in tutte le salse. Qualche volta qualche buon libro può avvicinarsi alla narrazione radiofonica, ma deve essere proprio un buon libro. Ciao Maurizio Crosetti. E dunque io continuo con Maurizio Giovanni provando a spiegargli che domani sera c'è questa partita. E forse, professore, potrebbe perfino giocare, non è tanto prodigo il figliolo, è più che altro il reietto della situazione. Ma io credo che proprio se una delle poche cose positive di quando si gioca con una squadra come la Juventus sia proprio quella di non avere tanta attenzione a chi gioca e a chi non gioca, perché è tale il valore della rosa, è tale il valore di chi subentra che è pochissimo se non nullo. Noi a Napoli abbiamo un proverbio che dice che è sempre meglio, diciamo tradotto, e c'è anche in italiano, un asino vivo di un dottore morto. Quindi non so se augurarmi la presenza di un giocatore che comunque abbia delle remore derivanti da un infortunio e da un'operazione, piuttosto che un giocatore meno forte, perché stiamo parlando di un po' di classe assoluto, ma nel pieno della voglia di far vedere che è perfettamente in grado di ricoprirne il ruolo. Quindi direi che sono piuttosto indifferente a chi giochi e a chi non giochi contro di noi, sono piuttosto molto attento alla squadra che è veramente in campo da tardi, perché la scelta di tenere Maggio a destra lasciando Yusai a sinistra come è stato a Udine, o di far giocare Mario Rui, secondo me dirà molto sul modo in cui mentalmente il Napoli affronterà la partita. Pierluigi, che ne pensi dell'uno argomento e dell'altro? Perché io penso che, insomma, anche dal punto di vista emotivo, Higuain o non Higuain, poi no, Maurizio Giovanni ha ragione, meglio... Mi diverte il fatto che nell'assoluto rispetto formale, nell'eleganza, il professor De Giovanni continua a non nominare il giocatore che in questo momento ha un problema l'ho notato anch'io. Alla mano, sono circa 2 anni che lui proprio non pronuncia quel nome. Ma si capisce lo stesso, no? Non c'è bisogno, nemmeno io l'ho usato. Se quel giocatore lì che si chiama Gonzalo Higuain dovesse giocare, che avrebbe mille motivazioni, secondo me, il fatto stesso che sia stato recuperato. È la dimostrazione che qualsiasi ricostruzione maliziosa sarebbe assurda. Higuain vuole giocare. La verità è quello che dice Don Allegri, cioè che comunque ci sono delle altre partite, e questo mese di dicembre per la Juve è un mese tutt'altro che banale, perché poi c'è Juve Inter e il 23 c'è Juve Roma, quindi è abbastanza ovvio che l'Olimpia, assolutamente. Quindi insomma parliamo, c'è anche Bologna, a questo punto mettiamocela dentro, che comunque sta facendo bene, non è una trasferta banale. Quindi secondo me il ragionamento su un atteggiamento prudente nei confronti di Higuain è assolutamente quello giusto, a quello doveroso, perché il campionato della Juve non finisce a Napoli, comunque andrà a finire la partita col Napoli, ma il mese di dicembre invece è molto importante e forse potrebbe essere quasi decisivo. Quindi questo è il punto di partenza. Poi sul discorso dei dottori sul fatto che un non titolare in una condizione fisica migliore sia meglio di un titolare un po' acciaccato, dipende secondo me dalla differenza che esiste fra i due e dalla quantità di acciacchi, quindi è una cosa che secondo me nessuno può prevedere, forse soltanto Massimiliano Allegri può pensarla nella sua testa. Detto questo, il Napoli secondo me deve fare la sua partita, deve giocare cercando di imporre il suo gioco, perché è la cosa che riesce meglio in generale. Non è più l'unica cosa che sa fare, e questa è una cosa positiva rispetto al passato, ha imparato a vincere delle partite in cui non brilla, ma è comunque la cosa che le riesce meglio fare, giocare senza pensare troppo all'avversario, senza mai giocare sull'avversario. Maurizio Giovanni, un'ultima cosa, come respira Napoli in queste ore? Qual è il battito della città? È innegabile che non è una partita come le altre, non lo sarà mai, non lo è condizioni di distacco considerevole. Immaginarsi adesso che ci si gioca anche, nessuna partita ovviamente può essere decisiva nel girone dell'andata. Chiaro. Questo è ovvio, ma è altrettanto ovvio che l'opportunità di mettere una squadra come la Juventus a 7 punti di distanza e con un solo scontro diretto da giocare è una cosa troppo gustosa per non pensarci e per non sognarci su. Poi c'è un altro fattore importantissimo che è il discorso di un nuovo equilibrio raggiunto dai tifosi del Napoli, per cui non sono più i tempi in cui una partita valeva una stagione, in cui ci si accontentava di una vittoria, in cui c'era molto livore o cose del genere. Qui c'è equilibrio. Ma sai che questo è un fattore fondamentale. È una partita importantissima, fondamentale, una partita da vincere, ma è una partita che se dovesse essere vista lascerebbe 4 punti di distanza e uno scontro diretto in meno, una partita che se addirittura dovesse perdersi prevederebbe che il Napoli sia ancora un punto avanti. Quindi direi che in ogni caso, al di là degli effetti psicologici, è una partita di campionato importantissima ed è contro la Juventus, ma è una partita di campionato. E questo è fondamentale, secondo me, è un fattore chiave. Secondo me l'aspetto che è assolutamente indubitabile, cioè che ci sia più equilibrio rispetto al passato, dipende da due cose. Una, magari Giovanni ce la spiegherà anche di più rispetto ai tempi di Maradona, credo, da quello che ho capito, da quello che lo stesso Maurizio in qualche modo mi ha fatto intendere, che la città sia maturata in generale, complessivamente, no? Nell'approccio, senza perdere passione, però nell'approccio comunque a una cosa meravigliosa, grande, importante come il calcio, ma che rimane comunque calcio. E secondo, perché banalmente il Napoli di queste partite qui ne sta vivendo molte di più rispetto al passato, cioè mentre 20 anni fa o 30 anni fa il Napoli veramente veniva da una, cioè Maradona fu una vertigine incredibile, quella squadra fu una vertigine che catapultò il Napoli in una dimensione completamente diversa rispetto al passato. Questo è un percorso graduale. Qualcuno a volte fra i tifosi del Napoli si arrabbia un po' con De Laurentiis sulla gradualità di questo percorso, sul fatto che in certi momenti magari si poteva usare ancora di più sul mercato, però in realtà secondo me è quasi un senso di forza questo, perché la continuità che il Napoli ha avuto in questi anni è enorme. È certamente un elemento di forza. Cioè partite come, importanti come Napoli-Juve di domani, il Napoli le vive da 5-6 anni. Esatto, non diventano più questione di vita o di morte, non diventano più il core business della stagione, la partita in casa con la Juve. C'è un ultimo fattore da tenere in adeguata considerazione: il mese di novembre per le squadre che giocano il preliminare è un down clamoroso dal punto di vista atletico. Il Napoli chiude questo mese di novembre e inizia quello di dicembre, speriamo bene, ma chiude il mese di novembre avendo solo pareggiato col Chievo e avendo fatto un bel filotto di partite che in altri tempi, in altri modi, in altri anni avrebbe forse perso, ma certamente almeno pareggiato. Sì, sì. Questo dimostra che il Napoli ha anche come squadra una consapevolezza diversa. Il Napoli gestisce le partite, il Napoli è fermo nel primo tempo e nel secondo tempo aggredisce. Il Napoli non ha più bisogno di creare 15 occasioni da gol per fare un gol. Verissimo. Questi sono tutti fattori di cui il Napoli è consciente e consapevole e che si riflettono chiaramente sulla speranza che noi abbiamo. Verissimo, verissimo Maurizio. Senti, buon appetito per domani sera o buon teatro? Sì, no, quello, io penso quel che sarà. Sono certo per il teatro e il cinema, quindi qualsiasi cosa mi consigliate. Sono a Napoli, domani sono a Napoli, così casualmente. Casualmente. Andare a cena insieme. Pierluigi ci deve essere, perché come lui ben sa, la sua funzione è fondamentale. La sua funzione è fondamentale. L'abbiamo più volte. Questo dal punto di vista rigorosamente cabalistico, la presenza di Pierluigi è sostanziale. Però la verità è che, premesso che questo potrebbe cambiare, adesso non vorrei far affreddare gli entusiasmi di Giovanni, premesso che queste cose A contano zero e B cambiano di stagione in stagione, ci sono dei periodi in cui becchi con delle squadre dei momenti sfigatissimi, vale pure per quegli altri. Quindi Giovanni, Edoardo De Filippo nella sua saggezza estrema diceva che essere superstiziosi è da ignoranti, ma che non esserlo porta male. Quindi io vorrei, chi siamo noi per contrapporci Edoardo De Filippo? Come io invece ti rispondo col cartello che si mette nei parcheggi, no? La direzione non risponde, il telecronista non risponde né dalla parte né dall'altra. Non sparate sul pianista. Grazie Maurizio De Giovanni. Grazie a voi. Grazie. Hanno fatto ormai 4K, il Full HD, il 3D, eccetera. Però il televisore, allora? La partita di calcio con la certezza che la tua squadra vinca, quella ancora non l'hanno inventata. Ci arriveremo, eh? No, speriamo di no. Pier, stai lì che adesso speriamo per la borsa. Mancherebbero 2 minuti, però mi hanno dato 3 minuti di proroga, quindi posso chiudere alle 23:20. Manca 23:24, quindi vai con calma. Tutti convocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti Convocati. Allora, Pierluigi Pardo, volevo tue notizie in diretta sull'operazione di imbarco, tutto a posto? Sì, sto finendo un gelato, è il mio braccio. Bene, bene, bene, bene, bene, molto bene. Stai andando a Napoli per Napoli Juventus di domani sera, di cui stiamo parlando? Sì, sto andando in realtà a Ostuni per presentare il romanzo e domani via terra raggiungerò via terra. Napoli. Questo sì, sia ben chiaro. Io sto guardando un nuovo tatuaggio di Insigne, abbastanza spaventoso, a tutta schiena, un doppio leone, ma lo vedete oggi su tutti i social, giornali, eccetera, eccetera. A proposito di leoni, il colpo giornalistico del momento, io credo, sia l'intervista che vediamo oggi, doppia pagina sul Corriere della Sera, a Totti, penso tu l'abbia letta, no? Le prime parole di Totti dopo il ritiro. Sai che ne ha parlato, vabbè, tra poco ne parleremo diffusamente, ne ha avuto per tutti, dalla situazione della Roma, vorrebbe salire sulla macchina del tempo, ma purtroppo quella non è disponibile, è solo nella fantasia, chi non lo vorrebbe, non solo Totti, oppure parla di Insigne, uno dei pochi che inventa, come me, con me avrebbe giocato Italia-Svezia fin dall'inizio, ma anche con noi, anche con me Pardo e con credo il 90% degli italiani. Dice Tommasi, presidente della Federcalcio, commissario tecnico Montella, stesse cose ha detto oggi peraltro Di Francesco in conferenza stampa, che ha parlato anche di questa lunga bellissima intervista che appunto compare oggi sul Corriere della Sera doppia pagina, firmata da Daniela Dell'Era e Luca Valdiseri. Sentiamo Di Francesco a proposito di questa intervista. Ma passaggi particolari non ce ne sono, conosco la, per come ha parlato del figlio, mi è piaciuto quando ha parlato di Cristian, che ha parlato di educazione, di rispetto, di crescita di un bambino, non di un potenziale campione futuro, non dando pressioni, spesso succede con i genitori, specialmente i più importanti, che danno ai ragazzi nelle aspettative che si vanno a creare, di questo ne sono molto felice ma non avevo dubbi. Poi c'è il secondo voto per Tommasi e il secondo voto per Vincenzo Montella. E per quanto riguarda il Napoli, io mi auguro che rimanga un pochino al sud, un po' più alto al massimo, voglio dire, no, si fa una battuta, però devo dire che obiettivamente quest'anno il Napoli ha le potenzialità per diventare una squadra da scudetto importante, questo lui ha espresso più che altro questo giudizio, poi il fatto che possa vincere mi interessa in maniera relativa perché cerco di guardare molto in casa mia. Allora, autore di questa intervista con Daniele Dell'Era, Luca Valdiseri, Corriere della Sera, ciao Luca. Ciao, buongiorno a tutti. Complimenti innanzitutto. Bellissimo, gran colpo e gran colpo. Io voglio chiederti però una cosa che non si legge: come hai visto gli occhi di Totti? È un uomo risolto o ha ancora troppo bisogno della macchina del tempo? Oppure, come ti ha detto, parla qualche volta ancora con se stesso perché non è abituato a quel ruolo? Tutte e due, diciamo. Però se fino magari un mese fa era l'uomo che parlava con se stesso, ora ha cominciato a parlare anche con gli altri e questo distacco dal calciatore a dirigente sta avvenendo nei tempi giusti e con quella che è la grande arma di Totti, cioè la sua sincerità, che si nota, basta starci vicino un attimo, lui non ha mai paura di dire quello che pensa e questo al calcio italiano serve molto. Bravissimo, io credo che sia un patrimonio non solo della Roma ma del calcio italiano il suo essere Francesco Totti. Ora non voglio essere troppo melodrammatico né nostalgico verso il passato, però di personaggi come Totti credo ce ne sia bisogno, magari anche per altri, ma qui sto divagando, per altri scenari al di fuori della Roma, no Pardo? Sì, io credo che nella giornata di lunedì sia avvenuta una cosa molto importante, cioè lui ha fatto quel tweet su De Rossi, giusto secondo me, condivisibile, perfetto, da capitano a capitano, da bandiera a bandiera, in un momento molto complicato, e non voglio dire che sia il suo vero battesimo da dirigente, però sì, insomma è la prima volta, poi Luca conosce l'ambiente romano meglio di me perché vive a Roma, perché ovviamente insomma conosce benissimo la realtà, credo che quella sia stata una cosa molto bella, una grande, veramente un debutto in società dal punto di vista del comunicatore dirigente. Poi già a Monte Carlo ai sorteggi era stato straordinario, tutte le volte che va negli stadi ovviamente si becca i selfie e porta allegria anche nei tifosi avversari, ma queste sono cose che conosciamo. Invece l'altro giorno ha parlato da dirigente che sta crescendo, che si sta prendendo le responsabilità che si deve prendere in una nuova carriera, proprio perché, come tu ricordi spessissimo, sono d'accordo con te Carlo, non è che essere stati dei grandi giocatori debba automaticamente garantire una pensione durata a vita o un posto, bisogna aggiornarsi, bisogna lavorare, anche se fai semplicemente l'ambasciatore devi saperlo far bene, e a me la cosa dell'altro giorno ha colpito molto, mi è piaciuta molto, molto, mi sembra una cosa, non so che ne pensa Luca, anche perché in quelle ore a Roma c'era un dibattito pesante, credo, su De Rossi, anche no? Troppo pesante, Pierluigi, oltre i confini del buon gusto e dell'eleganza, questo l'abbiamo già notato, soprattutto sui famigerati social sono state dette, soprattutto scritte, delle cose onestamente inaccettabili, mescolando Rossi, la politica, il momento sociale, Ostia e tutte queste cose che non stanno onestamente né in cielo né in terra e sono offensive, penso, per le persone di buon gusto e di intelligenza. Ma certo, guarda, Luca, vai. No, dico, la cosa più divertente ieri dell'intervista è quando Totti ha raccontato che in tribuna adesso, da dirigente, sente quello che per noi è normalissimo, no? Cioè il chiacchiericcio di noi comuni mortali, no? Basta, dalla, allora dormi, che fai? Se io in campo, naturalmente, tutto questo non lo sentivo, cioè pensavo a giocare, se parlavo con i compagni. Cioè, adesso che sto in tribuna, dico, dice tutti allenatori, cioè non capito, e l'ha detto come se fosse quasi stupito, no? Come se fosse un mondo dal quale miracolosamente era riuscito a stare al di fuori. E però questo è, capito? E allora la presenza di uno come Totti, ma come possono essere Pirlo? Io la sera dell'eliminazione dell'Italia, di Italia-Svezia, no? Pirlo, che ha un modo di parlare un po' così, sembra che si è addormentato, ma in realtà dava delle scudisciate clamorose, cioè, capito? Proprio, ma non per il gusto di dire qualcosa di cattivo, ma proprio perché da calciatore affronta i problemi come fa un calciatore. Tu, se il compagno sta giocando male, non è che gli puoi fare una seduta psicanalitica, no? No, è chiaro. Devi chiaro. Dirgli svegliati, stai un metro a sinistra, stai un metro a destra. E questo modo molto pragmatico, che può venire solo da chi il calcio lo ha vissuto, lo conosce, e Totti in questo momento è un vantaggio non essere al 100% dirigente, perché lui ha ancora il contatto quotidiano con lo spogliatoio, lui te lo dice. Io vado in spogliatoio come prima, l'unica cosa non mi spoglio. E questo lo sento. È una presenza enorme, è una presenza enorme da ogni punto di vista, ma anche banalmente tu pensa sul settore giovanile, tu pensa per i ragazzi di tutto il mondo che cosa significa avere una persona che viene lì, che ti dà un consiglio, per i ragazzi della primavera e delle giovanili della Roma che cosa significa avere uno come Totti che viene lì. Io lo so, però guarda che quello lì, quando diceva Luca, è un ruolo non facile, perché bisogna essere accettati e bisogna viverlo con estrema delicatezza. Ma infatti, però, cioè, a me sembra che stia anche ulteriormente maturando e crescendo in un nuovo lavoro. Monchi mi sembra una persona anche importante nella sua diversità di provenienza, ovviamente, nel suo background che è diverso. Ma mi sembra una persona, e non so se Luca me lo può confermare, credo che ci sia un ottimo feeling fra i due, feeling anche proprio personale di buoni rapporti. Quindi io a me piace appunto questo. L'altro giorno Mirabelli ha buttato lì quella frase su Gattuso, adesso se la gioca, vediamo come se la gioca. E tutti i grandi campioni, quando poi comunque cambiano vita, ricominciano, non dico da capo, ma ricominciano da un'altra parte, non da capo ma da un'altra parte. Ragazzi, io vi saluto e vi ringrazio. Luca Maldissera, ciao, Luca. Ciao Luca, ciao. Ciao Pier, ti lascio volare. Saluto Giuliano Santorgi. Saluto. Saluta che sta qualche metro più avanti. Adesso ci fermiamo per il traffico e invece poi apriamo una pagina doverosa e molto piacevole, che è quella del Giro d'Italia che è stato presentato ieri. State con noi. Una puntata davvero eccitante. Piena di sorprese, piena di colpi di scena e non è tutto. C'è ancora un'ultima grande sorpresa. Tutti convocati. Ciao everyone. I'm looking forward to seeing you all on the start line of the 2018 Giro d'Italia. Mi sembra sia piuttosto chiaro, no? Giro d'Italia numero 101 con la presenza confermata del numero 1, e cioè Chris Froome, come avete sentito, appuntamento a tutti. per la partenza in Israele. Questa è, questo è qualcosa ovviamente di nuovo e di inedito, con poco cronometro, molte salite. Pier Augusto Stagi, buongiorno. Ciao Carlo, buon pomeriggio. Ti eccita questo giro, numero 101? Ma guarda, intanto c'è una partenza suggestiva, importante, mai avvenuta nella storia del ciclismo, la prima partenza fuori dall'Europa, e questo è un colpo che segna il Giro d'Italia. E poi ne porta a casa un altro, che è quello di avere già, sappiamo, un nome certo ce l'abbiamo, ed è quello più prestigioso, vincitore di 4 Tour de France, vincitore di una Vuelta, manca la collezione di Cristiano, ma solo il Giro d'Italia per entrare in quel ristretto gruppo di campioni che possono vantare la tripla corona. Ricordiamo, sono solo 6 corridori nella storia, con lui potrebbe essere il 7º, e per farlo deve per forza venire al Giro d'Italia per vincerlo. Ci verrà per la terza volta, le prime 2 volte era molto giovane, era un altro Froome, era un Froome che era stato scoperto di lì a poco sulle strade del Sudafrica da Claudio Corti. Arrivò nella sua prima partecipazione 130esima, la seconda addirittura, prima stagione alla Sky, fu cacciato in malo modo perché si attaccò una miraglia. Sì. E adesso ci torna invece col titolo di baronetto della regina, uno dei corridori più forti della storia del ciclismo. Poi, e sappiamo bene che cosa rappresenta Froome oggi per il ciclismo e per lo sport. Poi tu mi insegni, ma tanti fuori classe sono venuti al Giro d'Italia, alcuni per vincerlo e per fare il doblete da Indurain in giù, da Indurain in su. Abbiamo visto anche Lance Armstrong, abbiamo visto Contador, non tutti però con ambizione di vincere il giro, quindi un conto è partecipare, ma come sappiamo nello sport l'importante è un'altra cosa. Hai citato proprio Lance Armstrong è venuto per fare passerelle, è venuto per il gettone, come lui era venuto anche Greg LeMond, che non ha mai onorato fino in fondo la Corsa Rosa. Invece chi è venuto a onorare il Giro d'Italia è stato, per dire, Bernardinoi, come ha già citato Miguel Indurain. Finito con la maglia rosa addosso, no, sicuro. Poi è facile dire, Pier, e lo diciamo tutti in coro, erano altri tempi, adesso non puoi pensare di vincere Giro e Tour, e miri la preparazione su un grande obiettivo che o al Giro o al Tour, e tra poco parleremo anche di Nibali, perché ancora non abbiamo capito se uno di quei 6 che ha vinto tutte e 3 le grandi corse a tappe ci sarà al Giro oppure no. Io spero di sì. È chiaro che quell'epoca di cui stiamo parlando è ampiamente un'altra cosa. CT Davide Cassani, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Io e Stagi stavamo parlando della partecipazione di Froome, stavamo dicendo chi è venuto dei grandi campioni a far passerella, Armstrong, LeMond, diceva Pierluigi, Pier Augusto, scusate, lapsus neanche tanto freudiano. C'è invece chi è venuto come Indurain, come Bernardino, a fare il giro in un'altra maniera, è chiaro che fa parte della storia, della leggenda. Non so come verrà Froome, io stavo dicendo le solite cose, Davide, che siamo detti mille volte, il grande corridore punta la bandierina su un grande giro. Non so come Froome correrà, ma soprattutto non so se correrà Nibali, e mi auguro di sì, perché non l'ho ancora deciso. Tu, da commissario tecnico, che cosa ti auguri? Ma sai, io mi auguro che faccia la Vuelta e l'ha già messo in programma. Deve scegliere tra Giro e Tour. Se dovesse fare il Giro d'Italia, avrebbe tutto il tempo per recuperare, tirare il fiato e prepararsi per il campionato del mondo. Se invece opterà per il Tour, farà un avvicinamento più o meno come ha fatto alle Olimpiadi, quando fece il pre-Tour e subito dopo il Tour ai Giochi Olimpici di Rio. Ma sai, tutto dipende da quello che vuole fare lui, ma soprattutto da quello che vuole fare la squadra. Tu, Pier Augusto, chi vorresti vedere ai nastri di partenza tra gli azzurri? Beh, da appassionato di ciclismo io vorrei vedere tutti, questo è chiaro, è bellissimo. Poi io sogno un ciclismo che annovera al via delle grandi giri, delle grandi corse, il meglio, questo è chiaro. Però temo che Vincenzo invece opterà per il Tour de France, perché credo che lui lo trovi più congeniale, vuole anche sfruttare l'occasione probabilmente di un Froome un pochino più affaticato, anche se comunque la Vuelta l'ha visto quest'anno, è uno che poi ha vinto Froome, il britannico, quindi non era tanto affaticato. però nella sua testa ha quel mondiale che ha nella testa anche il CD Cassani, quindi il suo programma dovrebbe essere una bella primavera con la ciliegina Liegi che lui vorrebbe poter mangiare, poi uno stacco, presentarsi al Tour de France per fare classifica e la vuelta per entrare in condizione, per preparare, ritrovare il secondo picco di condizione, forse anche il terzo, in vista di un mondiale molto duro che è quello di Innsbruck, che è la scimmia che ce lo vogliamo levare dalla spalla tutti, a cominciare dal CT, insomma. Questo mi sembra evidente, credo che questo possa essere il programma appropriato, al di là di discorsi romantici. Ma Davide, questo tour in funzione tua, questo tour, questo giro, in funzione tua, che cosa ti può dire? Che cosa vorresti che ti dicesse? Ma sai... Perché mi sembra durissimo, Pierre, Ma no, non è che è durissimo, ma mi sembra un giro equilibrato, perché ci sono, ok, 7 arrivi in salita più la tappa di Spada, però ci sono alcuni, tra cui Montevergine, dove le salite non sono impossibili, certo. Quindi mi sembra più equilibrato, perché ci sono 45 km al cronometro e ci sono 6 arrivi in salita, e quindi penso che sia un giro disegnato bene, no? E anche perché alla fine la cosa importante per noi, soprattutto per chi lo guarda, è che comunque sarà interessante fin dall'inizio, perché ok, la prima crono, poi non so se nelle due tappe israeliane ci sarà il problema del vento, si traverserà anche un deserto, poco ci manca, no? Però sai, già in Sicilia un arrivo in salita, poi anche l'ottava e la nona tappa due arrivi in salita, cioè è una cosa interessante, perché alla fine ogni giorno o quasi ogni giorno c'è qualcosa da vedere, penso che sia quello il bello. E poi Froome viene al giro per vincere, non è che viene qua per fare pisterella. Sì, sicuro. Froome non può venire al giro per il gettone, per allenarsi, no, assolutamente, perché ha vinto 4 tour, ha vinto la Vuelta, e se ha messo in calendario il giro e il tour è perché vuole vincere tutti e due, e potrebbe anche riuscirci, perché alla fine comunque 45 km a cronometro ci sono, e sotto quel punto di vista 2 minuti e mezzo, 3 minuti di vantaggio su Aru ce li ha. Poi bisogna vedere se tenerli in salita. Ma sai che dico? Io me lo auguro, perché io a me piace vedere la corona sulla testa dei grandi campioni, e la doppia corona Giro Tour è quella che consacra i grandissimi, quei sei di cui per fortuna fa parte anche Nibali e che ricordavamo prima. Io vi ringrazio, Pier Augusto Stagi, Davide Cassani, avremo tutto il modo e il tempo di parlare di ciclismo e di questo giro. Adesso ci dobbiamo fermare, ragazzi, il tempo è finito anche per noi. Giorgio De Luca, nostro autore, oggi Paolo Corleone in regia, ci sentiamo domani alle 2 tutti convocati. Oh, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Saluti!